fare qualcosa anche solo per sbaglio, accelerare solo quando è giallo. Siamo felici o è solo un disegno? Comunque è sempre meglio averlo scritto, che certe volte proprio come un sogno.